Capitolo 25. Carattere e imprese di Atena. Atena inventò il flauto, la tromba, il vaso di terracotta, l'aratro, il rastrello, il giogo per i buoi, la briglia per i cavalli, il cocchio e la nave. Fu la prima a insegnare la scienza dei numeri e tutte le arti femminili come il cucinare, il filare e il tessere. Benché dea della guerra, essa non gode delle sanguinose battaglie come invece accade ad Ares e a Eris, ma preferisce appianare le dispute e far rispettare la legge con mezzi pacifici. Non porta armi in tempo di pace e qualora ne abbia bisogno le chiede in prestito a Zeus. La sua misericordia è grande. Se nei processi che si svolgono all'Areopago i voti dei giudici sono pari, essa di solito aggiunge il proprio per ottenere l'assoluzione dell'accusato. Ma se si trova impegnata in guerra, non perde mai una battaglia, sia pure contro lo stesso Ares, perché è più esperta di lui nell'arte strategica. I capitani accorti si rivolgono sempre a lei per avere consiglio. Molti dei, titani o giganti, avrebbero volentieri sposato Atena, ma essa rifiutò tutte le loro proposte. In una certa occasione, durante la guerra troiana, non volendo chiedere in prestito le armi a Zeus, che si era dichiarato neutrale, pregò Efesto di fabbricarle un'armatura. Efesto rifiutò di essere pagato, dicendo astutamente che si sarebbe assunto l'incarico per amore. Atena non afferrò il significato di quella frase e, quando si recò nella fucina di Efesto per vederlo battere col martello sul metallo arroventato, il dio all'improvviso si volse e cercò di usarle violenza. Efesto, che di solito non si comportava in modo tanto grossolano, era vittima di uno scherzo crudele. Posidone l'aveva informato che Atena stava dirigendosi verso la fucina col consenso di Zeus, sperando che Efesto facesse all'amore con lei. Quando Atena si divincolò da Efesto, questi eiaculò sulla sua coscia, un po' al di sopra del ginocchio. La dea si ripulì dallo sperma con una manciata di lana che gettò via disgustata. La lana cadde al suolo presso Atene e casualmente fecondò la madre terra che si era recata in visita colà. Ribellandosi all'idea di avere un figlio che Efesto avrebbe voluto generare in Atena, la madre terra rifiutò ogni responsabilità per la sua educazione. «E va bene», disse Atena, «me ne occuperò io». Prese infatti sotto la sua protezione il bimbo appena nato, lo chiamò Erittonio e, per evitare che Posidone ridesse del successo della sua burla grossolana, lo celò in un cesto che affidò ad Aglauro, figlia maggiore del re d'Atene Cecrope, raccomandandole di averne cura. Cecrope, figlio della madre terra e a somiglianza di Erittonio, che taluni ritengono fosse suo padre, metà uomo, metà serpente, fu il primo re che riconobbe i diritti della paternità. Egli sposò la figlia di Atteo, il primo re dell'Attica, istituì la monogamia, divise l'Attica in 12 comunità, costruì templi ad Atene e abolì certi sacrifici cruenti, sostituendoli con offerte di focacce di orzo. Sua moglie si chiamava Agraulo e le sue tre figlie, Aglauro, Erse e Pandroso, vivevano in una casa di 3 stanze sull'Acropoli. Una sera, mentre le fanciulle ritornavano da una festa sacra, portando il cesto di Atena a turno sul capo, Ermete offrì dell'oro ad Aglauro perché gli permettesse di introdursi nella stanza di Erse, la più giovane delle 3 sorelle, di cui egli si era violentemente innamorato. Aglauro si tenne l'oro di Ermete, ma non fece nulla per meritarselo, poiché Atena l'aveva resa gelosa dei successi di Erse. Ermete allora entrò furibondo nella casa, trasformò Aglauro in pietra e fece con Erse quel che più gli garbava. Dopo che Erse ebbe generato a Ermete 2 figli, Cefalo, il beniamino di Eos, e Cerice, il primo araldo dei misteri eleusini, fu mossa dalla curiosità di vedere che cosa mai si celasse nel paniere di Aglauro e, con la madre Agraulo e la sorella Pandroso, ne sollevò il coperchio. Scorgendo un fanciullo con una coda di serpente in luogo delle gambe, lanciarono un urlo d'orrore e si gettarono giù dall'acropoli. Venuta a sapere di questa disgrazia, Atena ne fu così addolorata che lasciò cadere l'enorme roccia destinata a fortificare ulteriormente l'acropoli, e quella roccia diventò il monte Licabetto. Poiché la notizia le era stata portata da un corvo, La dea ne mutò il colore delle penne da bianco a nero e proibì per sempre che i corvi si posassero sull'acropoli. Ritonio si rifugiò allora nell'egida di Atena, dove essa lo allevò con tanta cura che alcuni lo credettero veramente suo figlio. In seguito Ritonio divenne re di Atene, dove instaurò il culto di Atena e insegnò ai suoi concittadini l'arte di lavorare l'argento. La sua immagine fu posta in cielo come la costellazione dell'Auriga, poiché fu lui a introdurre l'uso del carro trainato da 4 cavalli. È nota anche un'altra versione della morte di Agraulo, e cioè che durante un assedio essa si gettò giù dall'acropoli, obbedendo al consiglio di un oracolo, e così salvò Atene dall'assalto nemico. Ciò spiegherebbe perché tutti i giovani ateniesi, la prima volta che vengono chiamati alle armi, si recano al tempio di Agrauli e colà offrono le loro vite alla città. Atena, modesta quanto Artemide, è molto più generosa. Quando Tiresia un giorno la sorprese per caso intenta a fare il bagno, essa gli posò le mani sugli occhi e lo accecò, compensandolo tuttavia col dono della chiaroveggenza. Si dice che in una sola occasione Atena diede prova di incontrollata invidia. Aracne, una principessa di Colofone in Lidia, città famosa per la sua porpora, era così esperta nell'arte della tessitura che nemmeno Atena poteva competere con lei. Quando le mostrarono un mantello dove Aracne aveva intessuto scene d'amore tra gli Olimpi, Atena lo scrutò attentamente per scoprirvi degli errori e, non trovandone alcuno, lo lacerò furibonda. Quando Aracne, avvilita e atterrita, si impiccò a una trave, Atena la trasformò in un ragno, l'insetto che più le è inviso, e tramutò la corda in una ragnatela. Aracne vi si arrampicò, salvandosi la vita. Per gli ateniesi, la verginità della dea era il simbolo della inespugnabilità di Atene stessa. Modificarono dunque e alterarono i miti secondo i quali Posidone e Borea le usarono violenza, negando che Efesto l'avesse resa madre di Eritonio, Apollo e Licno, lampada. Fecero derivare il nome di Eritonio da Erion, lana, oppure da Eris, contesa, e Ctonos, terra, e inventarono il mito della sua nascita per spiegare la presenza in pitture arcaiche di un fanciullo serpente che sbuca dall'egida della dea. La parte di Posidone nella nascita di Eritonio fu probabilmente molto più semplice e diretta. Perché mai Eritonio, infatti, avrebbe dovuto introdurre ad Atene il cocchio a 4 cavalli di Posidone? Atene fu in origine la triplice dea e quando la figura centrale, cioè la ninfa, fu soppressa e i miti che la riguardavano vennero attribuiti ad Afrodite, Orizia o Alcippe, rimasero soltanto la vergine vestita di una pelle di capra e patrona della guerra, e la vegliarda, che ispirava gli oracoli e presiedeva a tutte le arti. Erictonius è forse una forma dilatata da Erecteus, che significa dalla terra dell'Erica, anziché molta terra, come comunemente lo si interpreta. Gli ateniesi lo rappresentavano come un serpente dalla testa umana, perché era l'eroe o il fantasma del re sacrificato che rendeva noti i desideri della vegliarda. Sotto questo aspetto di vegliarda, Atena era assistita da una civetta e da un corvo. L'antica famiglia reale di Atene si vantava di discendere da Eritonio e da Eretteo. I suoi membri si chiamavano Eretteidi, usavano portare serpenti d'oro come amuleti e tributavano un culto a un serpente sacro sull'Eretteo. Ma Eritonio era anche un vento fecondatore che soffiava già dai monti coperti d'Erica, e una copia dell'egida di Atena veniva donata a tutte le coppie di giovani sposi ad Atene per assicurare la fertilità della sposa. Si sa che alcuni dei più bei vasi cretesi furono fabbricati da donne, eppure fabbricati da donne furono indubbiamente tutti gli utensili inventati da Atena. Ma nella Grecia dei tempi classici gli artigiani erano uomini. L'argento fu dapprima metallo più prezioso dell'oro, perché più arduo da raffinare, fu sacro alla luna. All'epoca di Pericle, Atene doveva gran parte della sua potenza alle ricche miniere d'argento dell'Aurion, sfruttate un tempo dai cretesi. Grazie all'argento, gli ateniesi potevano importare merci e comprarsi alleati. Probabilmente le figlie di Cecrope si gettarono dall'acropoli quando gli Elleni conquistarono Atene e cercarono di costringere alla monogamia le sacerdotesse della dea Atena, come risulta anche dal mito di Allirrozio. Esse preferirono dunque la morte al disonore. Ecco come si spiega il giuramento pronunciato dai giovani nel santuario di Agraulo. L'altra versione della morte di Agraulo è soltanto un aneddoto con significato morale, un ammonimento cioè per chi si azzardi a violare i misteri. Agraulo fu uno dei tanti appellativi della dea Luna. Agraulos e la sua traslitterazione Aglauros hanno praticamente lo stesso significato, poiché Agraulos è un epiteto omerico che designa i pastori, e Aglauros, come Erse e Pandrosos, si riferisce alla luna come fonte della rugiada che rinfresca i pascoli. Ad Atene le fanciulle uscivano nei campi durante la luna piena della mezza estate per raccogliere rugiada, una usanza che vigeva ancora in Inghilterra nel secolo scorso, con degli scopi magici. Codesta festa veniva chiamata Erseforia, ossia della raccolta della rugiada. Agraulo o Agraule era infatti un appellativo di Atena stessa e si dice che Agraule fosse venerata a Cipro con sacrifici umani fino a epoca tarda. Un anello d'oro di Micene mostra le tre sacerdotesse che avanzano verso il tempio. Le prime due spargono rugiada e la terza, presumibilmente Agraulo, ha un ramo legato al gomito. La cerimonia forse ebbe origine in Creta. La leggenda di Ermete che seduce Erse pagando Aglauro per ottenerne la complicità si riferisce senza dubbio alla prostituzione rituale delle sacerdotesse che avveniva dinanzi a una statua della dea, cioè Aglauro, trasformata in pietra. I canestri sacri che si portavano in processione contenevano serpenti fallici o altri oggetti dal simile carattere orgiastico. La prostituzione rituale era praticata in Creta, in Cipro, in Siria, in Asia Minore e in Palestina dalle devote della dea Luna. La storia di Atena che scaccia i corvi dall'acropoli è una variante mitica della cacciata di Crono. Crono significa corvo. E cioè il trionfo della religione olimpica qui viene erroneamente attribuito a Cecrope, che era in realtà il demiurgo pelasgico o Fione Borea. Il corvo che cambia colore ci ricorda il nome del doppione gallese di Atena, Branwen, corvo bianca, sorella di Bran. Uno degli appellativi di Atena pare fosse Coronide. La vendetta di Atena su Aracne è forse qualcosa di più di una poetica leggenda e adombra una rivalità commerciale tra gli ateniesi e i lidocari, che avevano la supremazia sul mare, talassocrazia, ed erano di origine cretese. Molti suggelli con l'immagine del ragno ritrovati a Mileto di Creta, la città madre di Mileto Caria e massima esportatrice nell'antichità di lane tinte in porpora, ci fanno supporre che l'industria tessile fiorisse colà nel secondo millennio avanti Cristo. Per qualche tempo i milesi controllarono i proficui traffici nel Mar Nero ed ebbero uno scalo commerciale a Naucrati in Egitto. Atene aveva dunque buone ragioni per essere gelosa del ragno. In Omero troviamo un'apparente contraddizione. Secondo il catalogo delle navi, Atena sistemò Eretteo nel suo ricco tempio ad Atene, mentre invece, secondo l'Odissea, la dea si reca ad Atene ed entra nella casa di Eretteo. In verità, il paredro abitava un'ala del palazzo della regina dove si trovava il simulacro della dea. Non vi erano templi in Creta o nella Grecia micenea, ma soltanto santuari domestici e caverne oracolari.